La gente stolta non lo può capire, ma della vita beffe ci facciamo. Il fato che non si può concepire, con lo scherno alla fine sommergiamo. È il riscatto del bambino che fu sulla seriosità dell'esistenza. La vita tu comprenderai di più se coglierai qual è la nostra essenza. E con le parole dei fratelli della Forca, l'angolo noir vi dà il bentornato e vi conduce direttamente sulla vetta del Monte Patibolo. Tanto tempo fa vivevano otto allegri re che passavano le giornate nella spensieratezza, ridendo, scherzando e chiacchierando tra di loro. Si chiamavano così e cosà. Un giorno erano nel pieno delle loro chiacchiere da re. Il mondo è senza sale, andiamo a cercare il sale, disse il secondo re. E se fosse pepe? Disse il sesto re. Chi conosce le novità? Chiese il quinto re. Io, gridò il settimo re. E come si chiama? Chiese allora il primo re. Il segreto rimosso, rispose il settimo re. La sinistra, la destra, la strada di mezzo, la notte, la base della piazza delle sciocchezze sui tre lati del sensibile. E il modo per farlo? Chiese l'ottavo re. La croce monca senza testa e con un sostegno all'angolo, disse il settimo re. Vuoi dire la forca? Disse il quarto re. Proprio, disse il terzo re. E allora tutti ripeterono proprio che voleva dire sì, ecco, perfetto. Così gli otto allegri re indossarono in tutta fretta il loro abito migliore e si fecero impiccare dai loro giullari. Ma mentre loro penzolavano ormai senza vita, le menti dei giullari caddero in preda all'oblio. Passarono settimane, mesi, anni e infine secoli. Il luogo in cui furono impiccati gli otto allegri re fu destinato alle esecuzioni e divenne noto a tutti come il Monte del Patibolo. Vi furono impiccati tanti sventurati, assassini, ladri, truffatori, ma anche innocenti, sognatori e puri di spirito. Con il passare del tempo, a forza di penzolare l'uno accanto all'altro, molti impiccati fecero amicizia e fraternizzarono. Divennero così legati tra di loro che decisero di unirsi in una confraternita che chiamarono i Fratelli della Forca. Così cominciarono ad arrivare anche impiccati da altri luoghi e non solo i condannati a morte, ma anche coloro che avevano deciso di togliersi la vita. O chi lo aveva fatto accidentalmente. Canzone dei Fratelli della Forca. La vita è un tremendo paradosso e noi penzoliamo dal capestro rosso. Il serpente sibila, il ragno fila, tra le cime aguzze il vento si infila. Orrore, orrore, orrore desolato, tu sia maledetto, il gufo ha gridato. Le stelle brillano, la luna di più. Di quale luce risplenderai tu? Orrore, orrore, orrore desolato. Senti, scalpiccia il cavallo argentato, la civetta fischia, lassù, laggiù, tutto si fa più blu. Tra i fratelli della forca c'era Palmstrom, un tipo piccoletto dall'animo sensibile, che, per paura di rovinare i ricami sul suo fazzoletto rosso, evitava di soffiarsi il naso. Si era impiccato da solo in un freddo mattino di novembre, quando aveva intuito che la forca era l'unico modo per comprendere tutti i segreti che non saranno mai rivelati. Era stato lui ad avere l'idea della confraternita. Diceva sempre che un fratello della forca è l'invidiabile anello di congiunzione tra l'essere umano e l'universo, che dalla forca si vede il mondo da una prospettiva diversa e si riconoscono le cose come l'altro. Korf era il migliore amico di Palmstrom, un tontolone rubizzo, con il terrore dei dirigibili e dei palloni aerostatici. Non comprendeva minimamente le teorie del suo amico, ma per fedele atto di amicizia si era impiccato insieme a lui, senza farsi troppi problemi. Si dilettava di orologeria e costruzione di marchi ingegni. I due avevano infatti creato due orologi. L'orologio di Palmstrom. L'orologio di Palmstrom è una cosa strana, è delicato come una mimosa. Chiunque chieda è sempre ascoltato e spesso a lungo così ha funzionato. Accogliendo ogni gentile domanda, indietro avanti le lancette manda, di un'ora, due, tre, quattro e così via. Come gli suggerisce l'empatia. È composto da quadrante e da lancette, ma non segue regole troppo strette. È un meccanismo che segna le ore, ma è un meccanismo dotato di un cuore. Anche Korf ha inventato un orologio. L'orologio di Korf. Un orologione Korf ha inventato, nel quale le lancette ha duplicato, che non solo avanti possono girare, ma anche il tempo passato riportare. Le 2 e le 10 mostrano unitamente, o le 3 o le 9 congiuntamente. Con questo orologio da consultare, il tempo non potrà più spaventare. Poiché l'orologione korfiano ha una testa bifronte come Giano, il tempo non significa più niente. E i due un giorno in volo si sono messi prendendo in prestito un pantatifone. I pantatifoni. Dal meteo sarto ventoso amorfo si prendono un giorno Palmstrom e Korf due pantatifoni al loro gusto, fatti del nord-ovest più robusto, e sorvolano con questi abbigliati le terre, i monti e i mari sterminati. Prendono al volo tutti i mascalzoni, ma lasciano vivere in pace i buoni. Il meteorologo resta allibito al vedere questo fatto inaudito, che sembra un fenomeno eccezionale, ma è frutto di una logica morale. Tra i fratelli della forca vi era anche una donna, Palma Kunkel, la fidanzata di Palmstrom. Trovando l'amato e il suo amico impiccati ad una trave del soffitto, era andata su tutte le furie e, in un gesto di stizza, aveva compiuto anche lei il grande passo e li aveva raggiunti. Collezionava oggetti, animali rinsecchiti, ossa, insetti e libri rari che amava personalizzare con cartellini ed ex libris invisibili, in modo che nessuno potesse accampare diritti sulla sua collezione. Ex Libris, uno stampatore ignoto da Tibris spedisce a Palma Kunkel un ex Libris, ma sembra proprio che non ci sia niente tranne un riflesso di luce splendente. Nessuna traccia di inchiostro o matita, Palma si sente davvero capita. Così appiccica i diafani foglietti pieni di gioia su Libris oggetti. Dentro un armadietto viveva anche un vecchietto vestito da marinaretto che si chiamava Pauretto. Una sera, dopo aver alzato un po' troppo il gomito, era rimasto accidentalmente impiccato ad una corda dell'albero di prua della nave, dove era imbarcato come sguattero di Cambusa. Ora passava tutto il suo tempo dentro quel malandato armadietto che aveva trovato nella cantina del boia. Forse gli ricordava la sua cuccetta a bordo della nave. Parlava in maniera bizzarra e gli piaceva fare scherzetti a tutti. Pauretto non era il solo a parlare in modo strano. Infatti, nelle cantine più profonde della grande forca si rintanava il grande Lalula, un omone grosso, grasso e molliccio, sudoso e puzzoso, che parlava una lingua incomprensibile, fatta di gorgheggi e strambi suoni. Era un mangiatore colossale di salsicce, salami, prosciutti, lardo, mortadelle, insomma, un filosofo dell'ingollo spropositato, un sacerdote del colesterolo, un sommo santone della gotta e un ministro dell'itterizia. Era rimasto impiccato a un lungo filare di salsicce che voleva divorare, facendo strane acrobazie per divertire la figlia del macellaio, della quale si era follemente innamorato. Per mantenersi in buona salute, una volta l'anno faceva un giorno di dieta, mangiando solamente crauti e cetriolini sott'aceto e sardine sott'olio. Amava vestirsi con i resti dei maiali macellati, che trasformava in vezzosi abiti che sfoggiava con orgoglio. Una volta Palmstrom e Korf accettarono da lui un goloso salamino salmone. E poi, dopo averlo ingurgitato, riuscirono a capire perfettamente i suoi articolati discorsi, anche se per poco, solo tanto fin quando non ebbero completato la digestione. I hear your voice. I hear. E poi vi era il boia. Il boia era un portento, sempre alle prese con corde e capestri. Era un maestro nel fare nodi scorzoi e nell'erigere forche. Adorava starsene per ore ad ascoltare il cigolio della corda dalla quale penzolavano gli impiccati. Estasiato sosteneva che la forca gemesse e gli sussurrasse segreti inenarrabili. Sophie era l'assistente del carnefice, anche se gli impiccati spettegolavano tra loro sul fatto che fosse anche la sua amante. Tutti le volevano un gran bene e lei aveva sempre una parola o un sorriso per tutti, cosa che però faceva ingelosire il boia, tradendo così i sentimenti che provava per lei. Canzone dei fratelli della forca a Sophie. L'assistente del carnefice. Sofì, assistente del boia, resta. Su, vieni a darmi un bacio sulla testa. La bocca mia davvero è un gorgo fondo e nero, ma tu sei buona, generosa ed onesta. Su, Sofì, assistente del boia, resta. Vieni ad accarezzare la testa. Di capelli davvero in testa un cimitero, ma tu sei buona, generosa ed onesta. Sofì, assistente del boia, resta. Vieni a scrutarmi dentro la testa. Questi miei occhi spolpati. Il corvo li ha beccati, ma tu sei buona, generosa ed onesta. Sul monte del patibolo c'era anche un bambino. Era appeso alla sua forca da tanto tempo perché era stato uno dei primi ad arrivare. Chi lo avesse impiccato non si sa, o forse non è importante saperlo. Così tutti avevano dimenticato la sua storia. L'unica cosa che si sapeva è che si trovava lì da tanto tempo e che era divenuto colui che decideva se i nuovi arrivati potessero diventare dei fratelli della forca. Quando si presentava un nuovo impiccato, se il bambino sorrideva, era accettato nella confraternita, ma se si rivelava nella sua forma scheletrica, allora non era considerato degno di divenire uno di loro. Gli altri impiccati tenevano compagnia al bambino, lo consolavano quando era triste o quando si sentiva solo, giocavano con lui quando era sereno e lo coprivano quando era freddo o pioveva, lo accudivano con grandissima premura, avevano persino composto per lui una ninna nanna, ninna nanna del piccolo impiccato. Dormi, dormi, mio bambino adorato. C'è una pecora nel blu sconfinato. La pecora è fatta di acqua svanita e, come te, combatte per la vita. Dormi, dormi, bambino adorato. Dormi che il sole la divora in un agguato e la lecca via dal cielo splendente con la sua lingua lunga da serpente. Dormi, dormi, mio bambino adorato, che la pecora il cielo ha già lasciato. Ora la luna alla moglie borbotta, mentre la pecora cambia la rotta. Dormi, dormi, bambino adorato. Il piccolo impiccato aveva un pesce che gli era stato regalato da Sophie un giorno che lei lo aveva visto triste. Ora lo teneva in una bottiglietta di vetro e lo nutriva con le ostie sbriciolate, che pauretto sgraffignava la notte in una chiesa poco lontana. Il pesce dormiva tutto il giorno e la notte cantava felice, sapendo che all'alba avrebbe ricevuto il suo cibo prediletto. La luna aveva una strana influenza sui fratelli della forca, che senza alcun dubbio potevano essere definiti lunatici. Nei giorni di luna piena avevano i nervi a fior di pelle e dicevano di avvertire ciò che accadeva sulla superficie lunare. Farneticavano di folli abitanti, di iene e di vitelli lunari. Vociferava anche di una pecora mannara, il pecoro lunare. Tutti ne avevano una gran paura, pensavano che potesse morderli e trasformarli in licantropi belanti e lanuginosi. Ma Palma Kunkel era convinta che fosse una gran panzana e che la storiella non fosse altro che un modo poetico per descrivere l'alternanza di notte e giorno. Il pecoro lunare. Il pecoro lunare bruca in una radura, aspetta aspetta la grande tosatura, il pecoro lunare bruca su un filo del prato e poi se ne torna al suo vile adorato. Al pecoro lunare in sogno è apparso di essere la camera oscura dell'universo. Il pecoro lunare al mattino è spirato, il sole illumina il suo manto immacolato, il pecoro lunare. C'erano anche tanti corvi sul monte del patibolo, perennemente indaffarati a beccare le carni e a spolpare le ossa degli impiccati che non erano stati ammessi nella confraternita e dunque abbandonati al loro naturale destino. Il corvo Ralph era uno dei più infaticabili, ma un giorno all'improvviso crollò a terra stecchito. Secondo il boia aveva beccato la lingua di un tizio che, nel tentativo bislacco di sfuggire al caprestro, si era fatto una grande bevuta di arsenico. Il corvo Ralph, non appena ebbe capito che un altro anno era finito, nel rosso con il collo storto, Ralph il corvo giacque morto. Cra, cra, il corvo Ralph non c'è più. A seguire gesta, imprese e abitudini degli animali che si aggiravano per il monte del patibolo, c'era il signor Stampke, uno zoologo che non era mai riuscito a classificare nuove specie e che per questo si era suicidato nel suo laboratorio al terzo piano del Museo di Storia Naturale di Berlino. Indovinate come? Beh, si era impiccato naturalmente e aveva utilizzato come capestro un lungo parassita intestinale conservato sotto formalina, che aveva preso in prestito dalle collezioni del museo, con la scusa di scrivere un articolo per il bollettino di parassitologia tropicale. Ora era molto più sereno e da tempo lavorava un suo personale bestiario illustrato, anche se non sapeva disegnare, le sue illustrazioni sembravano gli scarabocchi di un bambino di 5 anni. Sul monte del patibolo non giungevano solo impiccati, ma anche persone che avevano smarrito la strada, camminatori solitari, gente con la testa tra le nuvole, sognatori, disperati, delusi dalla vita o anche curiosi che avevano sentito parlare della confraternita. Molti di loro avrebbero voluto diventare i fratelli della forca, ma ogni volta Palmstrom e tutti gli altri gli facevano pazientemente notare che per essere un fratello della forca si deve necessariamente passare per la forca, cosa notoriamente tutt'altro che piacevole. E poi li invitavano a desistere e a tornarsene a casa, oppure a compiere il grande passo. A quei pochi intrepidi che avevano deciso di andare avanti, Sofia era solita sussurrare alcune parole, mentre il boia sistemava la corda intorno al loro collo. Lascia correre le molecole, non pensare alle bazzecole, non ti devi scervellare, fermo, lasciati incantare. Getting all I couldn't do today.